Dovevo avere un'espressione davvero bestiale, perché la vidi spaventata che adocchiava il segnale d'allarme. L'indomani arrivò da Marta alle 4. Le dissi che Marta era a Parigi, ma che sarebbe rientrata presto. Aggiunsi: mi ha proibito di lasciarti andar via prima del suo ritorno. Mi proponevo di rivelare il mio stratagemma quando fosse troppo tardi. Per fortuna era golosa. La mia golosità invece prendeva forma inedita. Non ero per niente affamato di torta, di gelato al lampone, ma mi auguravo di essere la torta e il gelato ai quali essa accostava la bocca. Con la mia facevo smorfie involontarie. Non concupivo Svea per vizio, ma per golosità. Le sue gote mi sarebbero bastate, in mancanza delle sue labbra. Parlavo scandendo ogni sillaba perché mi capisse bene. Eccitato da quella merenduzza divertente, mi seccavo, io, sempre taciturno, di non poter parlare in fretta. Sentivo un bisogno di chiacchierare, di confidenze infantili. Avvicinavo il mio orecchio alla sua bocca, bevevo le sue parole. L'avevo costretta a prendere un liquore. Dopo mi fece pena, come un uccellino ubriaco. Speravo che la sua euforia aiutasse le mie intenzioni, giacché poco importava che mi desse le sue labbra volentieri o no. Pensavo alla sconvenienza di quella scena in casa di Marta, tuttavia mi ripetevo che in fin dei conti non sottraevo nulla al nostro amore. Desideravo Svea come un frutto, cosa di cui un amante non può ingelosirsi. Tenevo la sua mano nelle mie mani, che mi sembravano sgraziate. Avrei voluto spogliarla, cullarla. Si distese sul divano. Mi alzai, mi chinai là dove cominciavano i suoi capelli, ancora lanugine. Dal suo silenzio conclusi che i miei baci non le facessero piacere, ma incapace di sdegnarsi, non trovava alcuna maniera educata per respingermi in francese. Mordicchiavo le sue guance in attesa che ne stillasse un succo zuccherato come delle pesche. Finalmente la baciai sulla bocca. Subiva le mie carezze, vittima paziente, a bocca e a occhi chiusi. Il suo unico gesto di rifiuto consisteva nel dimenare debolmente la testa da destra a sinistra e da sinistra a destra. Non mi sbagliavo, ma la mia bocca vi coglieva l'illusione di una risposta. Le stavo addosso come non avevo mai fatto con Marta. Quella resistenza, che non era poi tale, secondava la mia audacia e la mia pigrizia. Ero abbastanza ingenuo per credere che in seguito ce l'avrei fatta lo stesso e sarei stato gratificato da un facile stupro. Non avevo mai svestito delle donne, ero stato piuttosto io a essere svestito da loro. Perciò mi ci misi maldestramente, cominciando a togliere le scarpe e le calze. Baciai i suoi piedi e le sue gambe, ma quando volli sbottonarle il busto, Svea si dibatté come un diavoletto che non vuole andare a letto, che viene squagliato di forza. Mi sferrava calci, le acchiappai i piedi al volo, li imprigionavo, li baciavo. Alla fine la nausea arrivò, come quando la golosità si arresta dopo troppa crema e ghiottonerie. Dovetti poi rivelarle l'inganno e che Marta era in viaggio. Le feci promettere, se avessi incontrato Marta, di non raccontarle mai quello che era successo tra noi. Non le confessai di esserne l'amante, ma glielo feci intendere. Il piacere del mistero le fece rispondere: domani. Quando io, sazio di lei, le domandai per gentilezza se ci saremmo rivisti. Da Marta non ci ritornai, e forse Svea non venne a suonare alla porta chiusa. Sentivo quanto fosse biasimevole per la morale corrente il mio comportamento, poiché, senza dubbio, erano le circostanze che mi avevano fatto sembrare Svea tanto preziosa. Altrove, non nella stanza di Marta, l'avrei desiderata? Ma non avevo rimorsi. E non era il pensiero di Marta che mi distaccava dalla piccola svedese, ma il fatto che da lei avevo succhiato tutto lo zucchero. I'm not afraid to die. Qualche giorno dopo ricevetti una lettera di Marta, il quale le diceva che la sua casa non era una casa d'appuntamenti, qual uso facevo della chiave del suo appartamento in cui avevo portato una donna. «Ho la prova del tuo tradimento», aggiungeva Marta. Non voleva mai più rivedermi. Certo, avrebbe sofferto, ma preferiva soffrire che essere uno zimbello. Conoscevo queste minacce che una bugia o persino un bisogno di verità sarebbe bastato ad annullare. Ma mi seccava che nella lettera di rottura Marta non mi parlasse di suicidio. L'accusavo di freddezza. Trovavo la sua lettera indegna di una spiegazione, perché io, in una situazione analoga, senza pensare al suicidio per convenienza, mi sarei creduto in dovere di minacciare Marta. Impronta indelebile dell'età e del collegio, credevo che certe bugie fossero comandamenti del codice passionale. Un nuovo bisogno si presentava nel mio apprendistato dell'amore: discolparmi di fronte a Marta e accusarla di avere meno fiducia in me che nel suo padrone di casa. Le spiegai quanto abile fosse quella manovra della cricca marin. In effetti, Svea era venuta a trovarla un giorno in cui io scrivevo a casa sua, e se avevo aperto è perché, avendo scorto la ragazza dalla finestra e sapendo che la allontanavano da Marta, non volevo lasciarle credere che Marta le tenesse rancore a causa di quella penosa separazione. Sicuramente lei veniva di nascosto e al prezzo di innumerevoli difficoltà. In tal modo potevo far sapere a Marta che il cuore di Svea le era rimasto immutato. Conclusi esprimendo il conforto di aver potuto parlare di Marta a casa sua con la sua amica più intima.